453. Cavolo versotto per contorno. Lessatelo a metà, strizzatelo dall'acqua, tritatelo con la lunetta, mettetelo al fuoco con burro e latte per tirarlo a cottura e salatelo. Quando sarà ben cotto, unitegli della balsamella piuttosto soda. Fate che si incorpori bene sul fuoco col cavolo e aggiungete parmigiano grattato. Assaggiatelo per sentire se ha sapore e se è giusto di condimenti e servitelo per contorno all'esso o a un umido di carne. Vedrete che piacerà molto per la sua delicatezza.